Vamos. Allora, siamo al telefono con Alessandro Ferretti, musicista, cantautore, polistrumentista che è uscito con il suo album Desodio. Intanto ciao Alessandro, come stai? Ciao, ciao a tutti. Ah, sto bene, dai, sto bene. Voi come state? Tutto bene, grazie non mille. Ce lo chiede mai nessuno indietro, che bello! Grazie, grazie bene. Alessandro, tutto bene. Sembra il minimo. Allora, Basta Walter è il titolo del tuo album Desodio, uscito il 23 maggio. Qual è il tema centrale di questo disco? Di cosa parla? Beh, oddio, è abbastanza scontato dire, è un disco personale, però alla fine quello è. E, diciamo, Basta Walter, il titolo dell'album, è un'esclamazione che uso spesso con i miei amici. Walter, sì, diciamo che è un mio alter ego, sarebbe il mio essere un po' vecchio, cioè sì, giovane, ok, 25 anni, ma avere l'animo un po' vecchio. Quindi Basta Walter, insomma, era una frase che mi piaceva, che usiamo tra amici, quindi... Ok, però sappiamo che Basta Walter, in realtà le iniziali sono anche collegate a qualcos'altro, quindi il titolo è scelto anche per un altro motivo, esatto, puoi raccontarcelo? Esatto. Il titolo, si è trovato un collegamento con le iniziali di Brian Wilson, B-W, cioè, per chi non lo sapesse, l'autore principale dei Beach Boys, gruppo anni 60, e dato che è il mio idolo musicale, ho detto, beh, possiamo modellare anche in questa maniera. E quindi ho detto, perché no? Quindi uno sguardo un po' al passato, in un qualche modo, giusto? Beh, sì, diciamo che sì, in tutte le canzoni c'è un riferimento un po' a tante canzoni, sì, degli anni 60, che è la mia epoca preferita della musica. Infatti, musicalmente dimostri un forte legame con il rock britannico. Ti chiederei a questo punto quali sono le tue influenze musicali e anche quando hai iniziato ad ascoltare il rock. Beh, allora, le mie influenze musicali sono, diciamo, io ho la mia trinità musicale, che è Noel Gallagher degli Oasis, e Paul McCartney, vabbè, non devo spiegare chi sia Paul McCartney, e Brian Wilson, appunto. Sì, speriamo che non ci sia da spiegare, cioè se qualche ascoltatore non lo sa, per favore, si disconnetta subito. Sì. No, beh, immagino che poi chi ascolta Radio Città Fujiko sappia chi sia Paul McCartney, me lo auguro. E quando ho incominciato a interessarmi alla musica, va verso i 13-14 anni in realtà, verso fine medie, inizio superiori, ho iniziato ad ascoltare un po' quello che ascoltava mio fratello più grande, ho detto, ah, interessante, poi dopo da lì ho coltivato la passione. Ok, allora i brani di Basta Walter sono, tu dicevi, molto personali, in realtà sembrano un po' anche raccontare delle biografie di personaggi sui generis, se così vogliamo definirli, e raccontano molto anche della società, quindi oltre che di persona. Come sono nati i brani e di cosa parlano magari alcune canzoni? Beh, allora, diciamo che io tendo a preferire la scrittura della musica, proprio i suoni e tutta quella roba lì. Invece per quanto riguarda i testi, oddio, dico la verità, non ci metto troppo, oddio, non voglio dire impegno, però cerco di scriverli così senza pensarci e cercare di dargli un significato a posteriori, no? Che secondo me può anche essere più interessante, cercare di vedere da più lontano le cose, no? Invece che essere più ragionato. E sì, sono pezzi biografici, anche sì, riflettono sulla società. Per esempio, il pezzo Che differenza c'è è, come dire, una riflessione del mondo di oggi, no? Cioè, ho pensato alla classe operaia che, sì, nonostante tutto, ha tutti i privilegi del primo mondo, ha un posto fisso, però insomma, si è miserabile uguale. Questo pezzo, che differenza c'è? Ti chiederei a questo punto se hai voglia di farci ascoltare un pezzo. Ma guarda, possiamo far ascoltare proprio questo, Che differenza c'è? Bene, lo ascoltiamo e torniamo subito da te. Ci dicevi quindi che fai un po' una scrittura a getto, diciamo, no? Quello che ti viene un pochino in mente e poi prendi un po' le distanze e guardi cosa è saltato fuori, se ho capito bene un pochino il tuo procedimento. Ma oltre a quello, praticamente fai tutto tu, cioè oltre a scrivere i brani, anche a livello musicale hai seguito tutta la parte musicale esclusa la batteria. Sì, esatto. Quindi, cioè, praticamente sai suonare tutto. Sì, appunto, tranne la batteria che non ho e che quindi non so suonare bene, sì, tutto il resto l'ho fatto io, ho il mio, oddio, chiamarlo studio è un parolone perché non è altro che camera mia e mi collego al computer con chitarra, basso, microfono per fare qualche suono simpatico e poi dopo sì, si fa tutto. Esclusa la batteria, chi ha partecipato quindi al disco? Le batterie le ha fatte Emanuela Losi, batterista degli Stella Maris, anche di Sarsina, delle Vibrazioni, e poi ho fatto mixare da Francesco Pinto, che è anche quello che ha scritto insieme a me Se vuoi, e poi l'ho fatto masterizzare da Beduna Studio. Se non sbaglio, tu fai parte anche di un'etichetta che porta sul palco, diciamo, un po' delle canzoni che degli artisti e delle canzoni che segue. Di che etichetta si tratta? Qua mi sono un po' intartagliata perché era difficile. Etichetta è una parola difficile, effettivamente. sì, sarà l'etichetta è la Elefante Rec, che ha fondato Ugo Cappadonia. E sì, il 23 maggio c'è stato il concerto di quattro artisti di questa etichetta, appunto io, lo stesso Cappadonia, Lucio Anello e Eliette. Quindi il 23 maggio sei passato da Bologna, insomma hai fatto questa data, ma ti chiederei anche se hai dei progetti oltre ad andare in vacanza, spero per l'estate, ma anche di calcare qualche palco. Ma guarda, in realtà non abbiamo ancora pianificato tante cose, quindi per ora c'è stata questa data qui, poi oddio l'estate è sempre l'estate, quindi le cose rallentano e anche io vado in letargo in estate, quindi... Adesso vediamo, ne riparliamo a settembre, come si dice. Perfetto, come quando si torna a scuola e si fanno tutte le pianificazioni. Anche se giugno, no, vabbè, ma ne riparliamo a settembre. Perfetto, allora guarda, ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone con la quale chiudere l'intervista e anche se hai un messaggio per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, vorrei far ascoltare la canzone Se vuoi, che direi che è la mia preferita dell'album. E messaggio per gli ascoltatori, beh, fate i bravi, assolutamente. Mi piace, questo è Walter che sta parlando, di la verità. Esatto, è proprio Walter che parla, fate i bravi, fate i buoni. Se no vi buco il pallone, va bene. Ringraziamo, grazie mille Alessandro, ricordiamo Alessandro Ferretti, Basta Walter, il nuovo album, e è stato un piacere, in bocca al lupo per tutto. Piacere anche per me e buona giornata a tutti quanti. Grazie.